si yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggigiorno non ha più senso parlare di televisione, perché ogni argomento che noi tocchiamo, che noi lambiamo, riguardante i fatti che accadono nel nostro paese, è comunque contaminato dalla televisione. Anche contaminato la televisione è ogni ragionamento di tutti coloro che dicono: io non la guardo, io la tengo spenta, a me fa schifo, io non so nemmeno cosa sia Sanremo. Oramai la televisione altro non è che il luogo della rappresentazione del reale, che sta ogni giorno divorando, come se fosse un cannibale, la carne del reale. Il reale non esiste più, il reale non ha più importanza, il prototipo perde fatalmente giorno per giorno la sua esistenza e dà corpo a questa grande, immensa rappresentazione del reale che sembra la cosa più importante che ci sia. Le macchine per rappresentare il reale sono varie, sono complesse. La più semplice di tutte è la televisione, semplice perché basica nell'uso, è facilissimo, basta accenderla e già il primo canale in cui è sintonizzata rappresenta perfettamente lo zoccolo duro dei suoi potenziali utenti. Li rappresenta e li soddisfa e quindi è perfetta, non è una macchina complessa. Andando avanti però ci sono macchine più complesse, macchine che richiedono una manualità, macchine che richiedono uno scambio reciproco tra chi le usa, macchine che mettono in comunicazione gli utenti tra di loro. Quindi nascono tutti i derivati della televisione, che sono quelle che abbiamo sempre chiamato protesi emozionali, partono dal nostro telefono cellulare, che è uno strumento semplicissimo per comunicare con i nostri simili, ma che diventa qualcosa che in sé rappresenta la nostra possibilità individuale di essere network e fruitore allo stesso tempo di uno spettacolo. Quando mandiamo un messaggio, quando mandiamo un'immagine, quando facciamo una videotelefonata, comunque diventiamo protagonisti di quella televisione individuale. Poi esiste la rete in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili, rete denigrata, rete idolatrata, rete comunque rappresenta un passo diverso rispetto a quella sorta di meravigliosa catalessi, di quell'uscita dal mondo a basso costo che rappresenta TV generalista. È sempre un'uscita dal mondo, ma richiede una partecipazione, una manualità, un tecnicismo in più, quindi è riservata a persone che non hanno assolutamente pregiudizi nei confronti delle macchine, ma si abbandonano molto più piacevolmente al rapporto con queste. Alla base di tutti questi ragionamenti metto due editoriali in prima pagina di due grossi quotidiani italiani. Il primo è quello di Francesco Alberoni, il pubblico privato di Francesco Alberoni, che dice: chiede o invoca una moratoria per i giovani, spengano YouTube e chat. La sintesi dell'Alberoni pensiero è questo: gli adolescenti non li riconosciamo più, non sono più uguali a noi, non riescono a comunicare più con noi adulti. Perché? Perché hanno la televisione, i telefonini, queste macchine dell'immaginario perverse nei quali noi non possiamo entrare. Non si capisce perché Alberoni sarà più o meno mio coetaneo. Cosa manca al professor Alberoni per poter andare a cercare anche lui in questi luoghi le persone con le quali vuole contaminarsi? Per ovviare a questa separazione tra mondo dei giovani e mondo degli adulti, che lui data momento di crisi dagli anni 60 in poi a venire, quando in realtà ci sono autori classici che riconoscono questa fuga generazionale, questa impossibilità di capire i giovani, di vedere il mondo con gli occhi dei giovani, dice: per risolvere tutto questo indichiamo una moratoria, che si chiudano YouTube, le chat, le discoteche, si limiti l'uso di internet e dei cellulari per consentire loro di ricominciare a parlare, di riprendere contatto con le altre generazioni, con i giornali, con i libri, una moratoria periodica di 2 mesi all'anno, una cura disintossicante. Io vorrei chiedere al professor Alberoni se lui accetterebbe una moratoria di 2 mesi di evitare di scrivere queste banalità su pubblico e privato. Non lo farebbe assolutamente, perché fa parte della sua vita, come fa parte della vita delle persone che ormai usano le protesi per comunicare, usare queste prolungamente la propria emotività. Secondo pezzo, Alberto Mattioli, in prima pagina della Stampa, dice: il festival deciso dal televoto delle ragazzine. Analizza un dato che questa mattina analizziamo come assolutamente nuovo il Festival di Sanremo, il Sancta Sanctorum di tutto il passatismo possibile, di tutto lo stravacchismo divanesco possibile, di tutto il familismo onirico possibile, è stato quest'anno contaminato dai giovani. Si è capito che l'80% degli 800.000 televotanti nella finalissima hanno dai 12 ai 20 anni, quindi hanno completamente stravolto quello che è il senso del Festival di Sanremo. A Sanremo non ha prevalso gli Albano, le Petti Bravo che vengono da iter televisivo, vetro televisivi, ma Marco Carta, che non c'entra niente, il divo di Amici, il prodotto confezionato perfettamente da Maria De Filippi, che infatti era madrina dell'ultima serata del festival, che tutti hanno determinato con una lettura unicamente politica, il festival di Rai 7, come avevamo detto una settimana fa, segna la grande pax televisiva, il grande patto della televisione generalista contro qualcosa di spaventoso che viene da lontano, che la televisione on demand, la televisione satellitare, la televisione specializzata, il grande malloppone della TV vetero onirica si è coalizzato, e Maria De Filippi è il personaggio chiave che ha fatto sì che attraverso una tecnologia di uso comune, che ancora la gente chiama erroneamente nuova tecnologia, ha transumato il pubblico giovanile dentro la vecchia televisione. Un'operazione che sembrava impossibile, sembrava al di là di ogni alchimia concepibile, in realtà è accaduto. Sanremo è diventato un'altra cosa, la televisione generalista sarà diventando un'altra cosa, ma dove andrà a finire? Il festival numero 59 è partito qui, da questa sala stampa, con qualche dubbio, e finisce qui con la certezza del successo. È il giovane Marco Carta, il vincitore della 59esima edizione del Festival di Sanremo. Quando le cose sono andate bene, perché uno deve andare a cercare il pelo nell'uovo? Insomma, se l'uovo è buono, butta giù pure il pelo, so proteine. Canta il vincitore della 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Marco Carta. Tu sarai la forza mia. Canta la vincitrice della categoria Nuove Proposte, Arisa. Sincerità, adesso è tutto così semplice. 800 24 0024 riuscirete a guardare la televisione con questo occhio, seguendo da una parte, e vi impongo un'operazione schizofrenica, la proposta di moratoria del professor Alberoni di chiudere il canale all'unico affluente di linfa vitale alla televisione generalista, quindi togliete ai giovani le loro ipotesi emozionali e fateli leggere bei libri, magari il libro del professor Alberoni, e d'altra parte questo dato abbastanza nuovo, un pubblico che mai sarebbe approdato alla vecchia, antica, putrescente TV generalista, ci ha approdato passando attraverso la loro manualità nel comporre velocemente SMS, nel sapersi passare parole veloci attraverso le reti, e hanno determinato una vittoria. Dal punto di vista musicale non conta assolutamente nulla, ma non è quello. Il Festival di Sanremo non è importante perché rappresenti lo stato delle cose musicali in italiana o italiane, o il grado di accettazione artistico rispetto all'espressione musicale in Italia, ma serve come grande termometro, grande indicatore di quello che è lo stato di crisi della televisione generalista. Questa mattina guarderemo il Festival di Sanremo, la televisione generalista e le possibili uscite da questo modello attraverso una ricerca che è stata fatta ultimamente, molto interessante, su quelle che sono appunto le possibilità di uscire da questa monocratica visione televisiva attraverso un televisore con un telecomando in mano. Abbiamo al telefono Cristina Papini della Nielsen Online. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, noi vorremmo parlare del vostro rapporto fatto dall'osservatorio multicanalità della Nielsen Online. Voi in qualche maniera avete fatto una fotografia degli italiani e ci potete dare qualche dato di una possibilità labile, mi sembra di capire, però decisa perlomeno nella sua visione di crescita, di allontanarsi da questo modello che sembrava così definito e così impossibile da scardinare, di una TV generalista. Gli italiani si stanno spostando nel consumo visionario dalla televisione intesa in senso tradizionale, con un televisore davanti, ad altri tipi di consumo? Come Nielsen Online, insieme alla nostra capogruppo Nielsen a Connexi e al Politecnico di Milano, abbiamo voluto svolgere questa ricerca nella convinzione che il pubblico, il consumatore, il cittadino stia cambiando, e stia cambiando il suo rapporto con i diversi mezzi. La ricerca ha infatti evidenziato che il consumatore italiano è sempre più multicanale e la sua decisione d'acquisto e la relazione con la marca sono determinate dall'interazione di molteplici canali, sia di comunicazione che di vendita, e che sono basati sulle tecnologie ma sono integrati tra di loro. Naturalmente a voi interessa il fruitore del medium come anche possibile cliente o acquirente di prodotti, perché questo che fate voi in fondo, assolutamente, il pubblico che voi analizzate, che poi è lo stesso pubblico che determina gli ascolti a televisione, sono sempre campioni Nielsen, mi sembra. Esattamente, sì. Quindi pubblico, diciamo che quello che noi consideriamo il modello televisivo è determinato da un pubblico che voi misurate in qualche maniera. Che noi misuriamo sia come ascolto televisivo che come consumo di beni e servizi che come consumo di internet. E quello che abbiamo individuato nell'osservatorio multicanalità è che non si tratta di un pubblico generale e indifferenziato, ma ci sono delle caratteristiche estremamente diverse a seconda dei target che andiamo a considerare. E quindi ecco, l'osservatorio... Mi faccia qualche esempio per capire... L'osservatorio multicanalità ha individuato 5 target su una mappa che vede da una parte dei consumatori un pochino più arretrati, sono quelli che abbiamo denominati esclusi e indifferenti, e in particolare questi due target, che costituiscono circa la metà della popolazione, sono quelli ancora ancorati ai sistemi tradizionali. Quindi c'è uno zoccolo duro del 50% della popolazione utile che guarda la televisione, che rimarrà tale fino all'esaurimento anagrafico della loro esistenza, cioè moriranno così come sono nati davanti al televisore. In parte sì, perché va detto, non è che dei consumatori che hanno un profilo valoriale molto proiettato all'interno della loro sfera privata familiare, che viene vissuta in maniera marcatamente tradizionale, e qui la TV riveste un'importanza centrale nel loro quotidiano. Ecco, se volessimo allucinare questo utente medio, cosa sarebbe? Una signora casalinga, settantenne, centro-sud Italia, una cosa del genere? Andando a generalizzare, abbiamo visto come a livello di definizione socio-demografica sicuramente c'è uno spostamento verso le fasce di popolazione più anziane, ma ci sono anche dei giovani all'interno di questo target. Soprattutto quello che discrimina è un basso potere d'acquisto e una bassa scolarizzazione, quindi si tratta di un profilo, un segmento che è anche quello meno attrattivo per le nostre aziende, nonché per i produttori. C'è anche da dire che le scelte di palinsesto della TV generalista degli ultimi anni erano basate allora su un pubblico ignorante, questo tradotto in termini brutali, ma è così. In parte va a toccare il pubblico che è anche più sensibile alla comunicazione televisiva e quindi alla pubblicità televisiva, e che si affida ai valori trasmessi dalla televisione nella propria decisione d'acquisto. Ecco, il dato invece di Sanremo, che commentavamo questa mattina nel pezzo di Mattioli, ma ne parlano un po' tutti, il fatto che Maria De Filippi, usciamo fuori dalla valutazione di tipo politico televisivo, non ci interessa niente se Rai e Mediaset hanno fatto il patto di sangue contro Murdoch, sono fatti loro, ma che Maria De Filippi, che comunque è un personaggio forte, che rappresenta comunque un'attrattiva per un pubblico che normalmente non guardava TV generalista, Amici è indubbiamente un fenomeno sociale. Ecco, il fatto che lei sia spostata dentro il calderone di Sanremo, abbia portato dietro tutta la sua tribù, è un fatto che voi avete già previsto, quindi, in questi dati, vedendo che c'era questa tendenza comunque a spostarsi dalla TV generalista ad altri mezzi di partecipazione allo spettacolo comune. Ma a me sembra una rivisitazione della multicanalità questo invito verso Maria De Filippi. È come spostare l'utente televisivo tipico della fascia pomeridiana o serale della De Filippi verso la TV generalista di Sanremo. E quindi in qualche modo la scelta, mi sembra che la scelta di Bonolis abbracci questo consumatore, telespettatore in questo momento multicanale, che riceve stimoli diversi a seconda del momento nel quale è esposto al mezzo di comunicazione. Ecco, il paradosso grosso che in un momento in cui per la prima volta la televisione generalista dà segni di vitalità, di uscita da queste gabbie anguste in cui era racchiusa per anni, tutti si stracciano le vesti per dire, Dio mio, possibile che sia questo pubblico ignorante, anziano e vecchio e passatista a determinare il grande spettacolo popolare, una volta che finalmente arrivano i giovani, nuovamente le vestali sono lì a strapparsi i capelli perché c'è la grande ombra dell'alleanza di Rai Mediaset, sottacendo, fingendo di dimenticare il fatto che questa alleanza già esiste almeno da una decina d'anni nelle linee di comando anche dell'azienda pubblica. Connesso. Oddio, mi sento in forma. Ehi, ho la richiesta di una nuova amica. Non conosco questa persona. Oh, bene. 235 amici. Oddio, sono famoso. Sto bene, ho tutto sotto controllo. Sto bene, un nuovo messaggio. Sei fico. Oh mio Dio, pensa che sono fico. Wow, è così sexy. Credo di essermi innamorato. Accidenti, vorrei poterla incontrare. Ehi, sto bene, è tutto sotto controllo. È molto meglio che a scuola. Non devo confrontarmi con nessuno. A proposito di scuola, devo fare i compiti. Chi se ne frega? Solo un'altra ora. Oddio, lei mi fa sentire così bene. Pensa che sono eccitante. Se solo potessi toccarla. Mi sento così connesso con lei. Mi sento così bene. Amo questo posto perché ho la situazione sotto controllo. Ho il controllo di tutto. Ho il controllo sul mio destino. Un nuovo messaggio. Wow, sembro così figo in questa foto. È solo questione di scegliersi il pusher più adeguato alle proprie esigenze. Questo è il giovane che fugge da Alberoni per rifugiarsi nel social networking. È un pezzetto preso da Karen TV, dalla TV alternativa rispetto al modello che stiamo analizzando. Una televisione fatta dagli utenti, un altro sogno, un'altra utopia, ma comunque una realtà che lentamente si sta muovendo. Questo è il sogno e la sensazione di un ragazzo abbandonato alla sua protesi emozionale. Si accorge precisamente di essere al centro di un mondo e che questo mondo reagisce, fittizio, illusorio, basato su sensazioni non su realtà, comunque è un'emozione. E la macchina visionaria non deve comunque essere una macchina che crea emozioni? Torno a parlare di questo osservatorio multicanalità, che forse in un momento fatidico e strategico sta cominciando ad analizzare quelli che sono i consumi degli italiani. Ho al telefono Fabrizio Angelini, che è direttore generale della DN Cronos. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Ecco, tu pure sei stato partner di questa ricerca. È interessante che un'agenzia di stampa, che in fondo nella lettura tradizionale del mondo mediatico è colei che fornisce la materia prima ai quotidiani, ai giornali, alla lettura più tradizionale e anche più staccata rispetto alla velocità in cui avvengono i fatti. Oggi un giornale scrive di una notizia quando noi già la conosciamo perché l'abbiamo vista in rete. Però si apre e comincia a capire che bisogna guardarsi attorno e non fermarsi comunque alle gabbie che in fondo ci davano sicurezza e a cui eravamo sempre abituati. Come tu vedi questa uscita dal mondo dei consumi tradizionali di intrattenimento, di informazione e di mezzi di comunicazione? Ma devo dire, noi questa è un'esigenza che avvertiamo ormai da un po' di tempo, da almeno un paio d'anni. Adesso probabilmente ci sono gli strumenti per misurare quello che è lo stato del mercato e per approntare anche, come dire, delle reazioni adeguate. È evidente, stavi citando pochi minuti fa Karen TV, che ormai anche il mondo informativo vive fondamentalmente di un carico di notizie, della capacità di creare informazione che è talmente diffusa che ci dobbiamo in qualche modo adeguare, nel senso che ormai chiunque sia dotato di un cellulare con una fotocamera piuttosto che di uno smartphone evoluto è in grado in qualche modo di realizzare un pezzo giornalistico. Un current sul web al 100% del palinsesto generato fondamentalmente dai consumatori, un 30% va in televisione, e quindi il problema che in qualche modo si deve porre chi fa dell'informazione il proprio business fondamentale è tutta questa, diciamo, sovrapproduzione, come impatta nel mio modo di fare business, di vendere le notizie. È possibile che magari qualcuno possa pensare di fare a meno di noi perché può accedere a queste notizie. Quindi Fabrizio, se non mi sbaglio, l'idea viene che allora bisogna cominciare a aggregare quello che già avviene in maniera spontanea, dare una struttura e dare anche un controllo editoriale, però usare questa grande rete spontanea di copertura della realtà. Io fondamentalmente penso di sì, cioè penso che bisogna continuare a fare entrambe le cose, nel senso che bisogna, secondo me, dar libero sfogo alle persone, alla creatività delle persone, perché questa è una richiesta che viene sempre più forte, diciamo, dall'opinione pubblica, e il ruolo, credo, di chi come noi fa questo in maniera professionale è fornire, come dire, un dato certificato, una fonte che in qualche modo è stata verificata nella sua attendibilità, nella sua credibilità, e quindi riuscire a mixare entrambe le cose, essere apprezzati e pagati per il fatto che una notizia che arriva in qualche modo alla DN Kronos è una notizia che sicuramente ha dei parametri di verificabilità sul mercato diversi da quella di un contenuto generato da un cliente o da un comune cittadino, però dar la possibilità sicuramente alle persone di commentare, di interagire e anche di produrre, perché questo è sicuramente il... Grazie Fabrizio Angelino. Melog 2.0. Ho un foruncolo, lo tolgo con Photoshop, così è molto meglio. Wow, così sono attraente. Altri messaggi, altra caffeina, altro zucchero. Che efficienza, è molto più semplice mandare un messaggio senza dover parlare faccia a faccia con qualcuno. Nessuna paura del rifiuto, nessuno che mi sfotte. Mi sento protetto qui, mi nascondo dietro un muro di uno e di zeri. Oddio, il computer è così lento. Perché non va più veloce? Non ho la pazienza. Ti prego, sii più efficiente. Devo investire più soldi in questo coso se voglio che vada più veloce. Non devo aspettare un bel niente, ti prego. Va più veloce. Oh mio Dio, perché non si connette? Ti prego, riconnettiti. Oddio, perché non ho più messaggi di testo? Per favore, chiamami, ne ho bisogno. Perché non mi manda più messaggi? Fammi sentire bene. Per favore, chiamami, ne ho bisogno. Perché non mi manda più messaggi? Fammi sentire bene. Per favore, chiamami, ti prego, riconnettiti. Ti prego, messaggiami, ti prego, riconnettiti. Naturalmente la tendenza è sempre quella di vedere la chiave patologica di tutti i cedimenti alle protesi emozionali. Il ragazzo che vive perfettamente il senso di velocità e l'accelerazione continua del suo tempo, è un tempo in cui veloce equivale a buono, equivale a bello, bisogna correre, bisogna essere veloci, bisogna avere tanti tempi sovrapponibili, tanti tempi spendibili, tanti tempi usabili, e la macchina permette questo, la macchina permette di lavorare, la macchina permette di amare, la macchina permette di sognare, la macchina permette di fare tutte queste cose, stratificate una sull'altra. La televisione permette soltanto una cosa, la televisione permette di lasciarsi andare al flusso televisivo, permette di entrare in quel meraviglioso stato di catalessi in cui sembra che scompaiano i problemi, in cui sembra che il mondo attorno sia come ovattato, i problemi lentamente si dissolvono o perlomeno sembrano scomparire. Questo è il senso a TV generalista, è una grande soporifera maniera per sentirsi meglio, ma non ci si vuole sentire meglio soltanto dimenticando, ma anche stressando se stessi, e quindi probabilmente il passaggio è solamente legato a un cambio di hardware, a un cambio di mezzo, a un cambio di strumento attraverso cui si ottiene sempre la stessa marmellata. Questo è un po' il problema di chi analizza i new media: prendere ciò che già è stato prodotto per la vecchia nonna televisione e metterla dentro i nipotini telefonino, rete, internet, YouTube e via dicendo, pensando che basti semplicemente questa sorta di travaso per dare senso al nuovo mezzo. Ma come ci ha già detto il direttore degli DN Kronos, no, è diverso. Si sta producendo una realtà, si sta creando una realtà che è sempre una lettura del reale, ma è quella che ogni giorno gli utenti generano e producono con le loro macchine meravigliose per sognare e per creare sogni. Beh, allora il mediatore dei tante letture individuali sarà il padrone del nuovo strumento globale. Giulia, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io volevo partecipare per dire che insomma queste tecnologie sono fantastiche, fantastiche. Quanti anni ha lei, Giulia? Io ho la tua età, ho 54 anni. Ah, perfetto. No, questo per sfatare il mito che esista un limite anagrafico all'uso delle nuove tecnologie, non sono un entusiasta, ma come useremo, che ne so, il catetere elettronico fra qualche anno, possiamo usare benissimo uno strumento di interconnessione in rete. Certo, diciamo che è l'uso che se ne fa che poi determina il valore di queste cose, no? Io per esempio ringrazio, non finivo mai di ringraziare chi ha inventato la webcam, chi ha inventato queste cose, perché si fanno un sacco di cose, certo. Per me è un aiuto mantenere proprio dei rapporti umani con la parte più importante della famiglia, che è mio figlio e la mia nipotina, che sono lontanissimi. Io con la webcam riesco a vedere la mia nipotina che cresce quasi giorno per giorno, voglio dire, vedendola ogni 3-4 mesi dal vivo. Guai se non avessi la webcam. Sì, ma lei sa che questo è un utility, è una maniera per prolungare la piacevolezza del rapporto familiare, ma è anche uno strumento di grande uscita dal mondo e di grande trasgressione. Non possiamo far finta serva solo per vedere le nipotine. No, sì, certo, d'accordo, però è come le medicine usano per curarci, se poi uno ne abusa, chiaramente ha l'effetto negativo. Perché sì, ma mica dico che faccia male. No, non vorrei dire che c'è un uso familiare onesto della webcam, dei mezzi di emozione informatica, un uso disonesto. Sono macchine che prolungano e amplificano ogni nostra possibilità di relazione, da quelle familiari a quelle extrafamiliari. Sì, possono arricchirci tantissimo e possono anche danneggiarci, come ogni cosa se usata male. Certo, grazie Giulia. Grazie. Ciao. Giulia. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Paolo Ferri è un amico, abbiamo spesse volte chiamato a questo microfono, però è anche docente di tecnologie didattiche, di teoria della tecnica dei nuovi media all'Università degli Studi Milano Bicocca. Mario, tu hai sentito fino adesso e vediamo di fare un punto da una persona come te che studia queste cose e vede ogni giorno quelli che sono poi i reali effetti di questa osmosi continua fra esseri umani e macchine per leggere la realtà. Ecco, sì, la parola corretta è osmosi. Chi dice che le macchine non abbiano un'anima probabilmente si sbaglia. Parlavamo di sfida tecnologica, parlavamo di novità, parlavamo di interconnessioni velocissime e si è stroncata la linea che ci collega con Milano, ma adesso l'abbiamo ripresa felicemente e continuiamo a parlare con Paolo Ferri, finalmente di nuovo in collegamento. Scusa Paolo, ci siamo interrotti. Non ti preoccupare, le macchine non sono perfette. Non so dove sono arrivato, ma stavo... No, sei arrivato quando hai smesso di parlare, fino a lì ti sei colto. Noi stavi dicendo che stavi cogliendo, facendo una piccola analisi di numeri, di adesioni su Facebook, che è la maniera più moderna, a quelle che sono, diciamo, le tribù che seguono anche dei programmi che poi si esprimono nella TV generalista, ma un po' la chiave di quello che è accaduto con quest'ultimo Sanremo. Esattamente, la mia impressione è quella lì, cioè in effetti il fatto che diciamo così, il vincitore di Sanremo sia stato in gran parte determinato da questo pubblico è in qualche maniera di interconnessi, di multicanali, di nativi digitali, chiamiamoli come vogliamo, dipende dal fatto che sono appunto organizzati in tribù che in qualche modo si generano delle relazioni sociali, emotive. Era molto bello il pezzo di Carmen TV che hai fatto sentire, ho il controllo, mi ha scritto, ho ricevuto in passaggio, non importa la scuola. Questi ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche i silver surf, cioè gli anziani, ma anche i cinquantenni che nella ricerca di Nielsen chiamano reloaded, cioè in qualche modo che sono entrati in questo flusso emotivo, passano in maniera abbastanza, come dire, inconsapevole o spesso consapevole tra un media e l'altro, e probabilmente si muovono in maniera molto più strutturata di quanto non capiti per gli esclusi. Ecco, ma questo cosa accadrà su questo, caro Mario? Perché ha più senso poi se la TV generalista ha aperto questo spioncino attraverso cui entrano tutti i topolini e cominciano a roderla dalle zampe, avrà più senso poi mostrare queste icone mummificate, gli Albano, i Fausto Leali, o diventeranno anche loro un valore con il recupero del trash che ha molte volte questa fetta di pubblico giovanile, cioè diventeranno dei cult in quanto rappresentanti di un'epoca scomparsa, come fossero, che ne so, dei faraoni egiziani? È possibile, in realtà probabilmente quest'anno è stata sancita in qualche modo la fine di Sanremo 1.0 e l'avvio di Sanremo 2.0, cioè in qualche modo il pubblico tradizionale che è appunto perso nel suo oblio passivo è stato sostituito, comunque nella sua allucinazione consensuale collettiva passiva, è stato sostituito dal pubblico giovanile che invece è allo stesso modo inserito in questa allucinazione consensuale interattiva che viene determinata anche dai nuovi media. Cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente che i media digitali e il social networking non sono o solo per un'elite, sono uno strumento di democrazia e di comprensione, in realtà sono delle protesi emotive che possono incidere in maniera anche molto forte proprio sull'emotività, sulla vita nervosa, sull'accelerazione dei tempi che caratterizza anche il pubblico giovanile. Certo. E comunque quelli che ci partecipano. C'è da considerare, Ferri, che in realtà la televisione generalista non si rende conto che si trova a un punto di discrimine, come quando una religione diventa vecchia, un nuovo culto riemerge e ne prende alcuni elementi rituali esteriori, ma gli dèi si alternano. certe liturgie da TV generalista non avranno più senso. Tu pensa che fino a questa mattina si parla ancora sui giornali della par condicio musicale, siccome è andato a Picella Domenica In, che canta le canzoni di Berlusconi, hanno dovuto chiamare un altro cantautore che ha messo in musica delle pagine di un libro di D'Alema. È divertente, no, come fenomeno di costume, ma cosa ha a che fare con questo mondo? Assolutamente niente, nel senso che credo che lì ci sia un problema anche proprio di consapevolezza da parte della classe dirigente in generale, di coloro che gestiscono la TV generalista, così come la politica, come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. C'è una totale inconsapevolezza del fatto che si sta creando una nuova audience, probabilmente multicanale, sicuramente molto più disposta a condividere le proprie emozioni e a interagire con, e quindi è chiaro che i vecchi soloni, non so, i Lazzanicchi, Albano appunto, probabilmente risulteranno, non dico spazzati via, ma in qualche modo dimenticati oppure rimediati, oppure appunto se acquisteranno la veste di icona anche per la rete, allora potranno tornare. Certo, secondo me il discrimine, io questa cosa sulla fine dei mass media l'avevo provata a scrivere nel 2004 e devo dire non avevo avuto un gran successo. È vero invece che stanno finendo nella loro forma tradizionale e, come dicevi tu tempo fa, in qualche modo la televisione generalista si sta smaterializzando e sta penetrando, si sta osmotizzando con i nuovi media. Beh, io negli anni 90 ho scritto un libro che si chiamava Ectoplasmi, che diceva proprio questo: la televisione è un medium perché evoca fantasmi. Carissimo professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Un po' allucinato questo sguardo, quindi suppongo È terribile, professore, è terribile. Ieri sera mi sono addormentato davanti alla televisione. E forse per questo fatto ho fatto un sogno allucinante, anomalo. Me lo racconti? Mi trovavo sul set di Will & Grace Anatomy, una serie TV che va per la maggiore. È incredibile, che succede? A un certo punto, mentre ero lì, mi arriva il dottor House. Professore, ha presente il dottor House? Sì. Quel dottore imbasticcato, zoppo, che per tutti i telefilm non ci capisce un cazzo, fa un milione di diagnosi, dal tumore a Ebola, fa un milione di esami al povero paziente. E vediamo così cosa accade invece nel fronte contrario rispetto a questo mammozzone di cui stiamo parlando in questo momento, che ha delle icone di cui non saprà cosa fare, ma forse il pubblico della rete, il pubblico dei giovani, il pubblico di coloro che sono giovani in quanto hanno manualità in questi mezzi di espressione di se stessi, li trasformerà, come ha fatto per Chuck Norris, in dei meravigliosi contenitori di storie fantastiche. Quello che avete sentito è uno stralcio di un nuovo canale che nasce proprio questa mattina, si chiama Flop TV, è un canale web prodotto dalla Fox Factory, che è una unità, una business unit della Fox dedicata proprio allo sviluppo, alla produzione di nuovi programmi che dovrebbero sfidare questa sorta di movimento non definito, nemmeno facilmente strumentalizzabile. Guardate che fine ha fatto Grillo e tutti i suoi grillini, non se ne sente più parlare, sembrava che fosse il fenomeno emergente della politica legata a un senso di democrazia multimediale. Beh, abbiamo questa mattina a parlarci di questo Flop TV, che già si definisce provocatoriamente nella sua definizione di flop, Michele Ferrarese, che è direttore creativo della Fox Factory e penso sia uno dei cervelli pensanti di Flop TV. Buongiorno Michele. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, la televisione sta cercando di rinnovarsi cambiando le maniere di distribuirsi, ma non mi sembra cambiandosi nei suoi contenuti. Ma no, essenzialmente in realtà è quello che vorremmo fare, è proprio una proposta editoriale, cioè essenzialmente di contenuto. Cioè, ci eravamo resi conto che molti contenuti non avevano spazio nella televisione tradizionale, in quella generalista meno che mai, ma anche nella visione commerciale in genere. E diciamo, noi siamo partiti da dei contenuti che avevamo sotto mano e anche da una considerazione anche di noi professionisti, come tante volte la televisione si autocensuri da sola, in qualche maniera sia, come dicevi tu prima, un po' ostaggio di un target attempato che in qualche maniera si ha paura di svegliare. No, la televisione ha rinunciato al fattore rischio da qualche anno. Assolutamente, cioè il rischio in questo Flop TV è un rischio totale, nel senso che noi ci poniamo innanzitutto una cosa molto rara, cioè innanzitutto la missione di non piacere per forza a tutti, quindi in qualche maniera vogliamo proporre dei contenuti nei quali crediamo e metterli un po' così. Ma è una TV comica soprattutto, mi sembra, basata... Sì, assolutamente basata sull'umorismo, chiaramente partiamo con un umorismo un po' assurdo, amaro, spietato, diciamo che fa leva sul senso di inadeguatezza, solitudine, fallimento, tutte cose che di per sé non sono molto divertenti, ma che a noi di Flop TV fanno anche molto ridere. Però l'ambito dell'immaginario è sempre comunque la vecchia satira sulla televisione, la televisione che crea materiale nuovo ironizzando su se stessa, parlando di se stessa. Probabilmente c'è di partenza il lato parodistico, perché comunque chiaramente la televisione è un grandissimo serbatoio, soprattutto i programmi molto brutti, i programmi tradizionali in qualche maniera sono un serbatoio di forza comica micidiale, quindi viene anche un po' normale parodiare la TV, ma questo non è, Flop TV non vuole essere antitelevisiva assolutamente. Però diventerete probabilmente l'ultimo ridotto salvezza per tutto ciò, sarà espulso a TV generalista, perché immagino che un domani Fausto Leali, anche gli Apicella, le Vanoni, i Benigni stessi, che Benigni non esiste nulla di più cadaverico che la comicità di Benigni, troveranno luogo nella vostra televisione come elementi di dileggio, probabilmente. Probabilmente di dileggio, anche se in realtà è un'operazione abbastanza semplice, insomma, molti personaggi non hanno bisogno di Flop TV per ridicolizzarsi, diciamo, chi vuole capire, chi guarda i contenuti al di là di come sono rappresentati, ride molto volentieri. La televisione, guarda, la televisione generalista si prende molto sul serio, cioè vedere ieri all'Arena di Giletti parlare seriamente della denuncia contro Benigni a favore di Vazzanicchi, è bello divertente, ma bello divertente come si leggono ancora delle vicende degli Achei, dei Troiani e via dicendo. Daniele, buongiorno. Salve, buongiorno. Con chi ce l'ha? Dunque, con chi ce l'ho? Con che senso con chi ce l'ho? No, cos'è una domanda? Se non ce l'ha con nessuno è fortunato. No, ecco, sì, io mi volevo, ecco, dare un intervento in relazione con quello che si diceva proprio a proposito di Alberoni, cioè quello che diceva lei stesso. Volevo aggiungere qualcosa, so che potrei parlare tre ore ma non voglio dilungarmi. Quella fase del ragazzo che lì si sentiva, quello spot, diciamo, abbastanza patologico, il ragazzo che insomma si è isolato e tutto, è stato, io posso parlare personalmente tranquillo, io quello all'inizio, cioè degli sviluppi della, cioè quando internet prese, ci siamo passati tutti, chi lo nega? Sì, ma anche in maniera... Io sono andato in America per conoscere una... Sì, ho preso per la prima volta l'aereo per conoscere una persona conosciuta lì. Cioè, io ho fatto anche questo. Col tempo, erano gli inizi, perché io, insomma, non sono proprio... Erano gli inizi. Poi, queste cose si capiscono col tempo. Poi, vorrei capire un po', non sono stati gli anni miei, come ci si è regolati quando è comparsa la televisione negli anni 20. Cioè, nel senso che l'uomo poi si conforma, poi capisce. Una volta che ci sono dei precedenti, ecco, è possibile anche stabilire delle linee di comportamento. E poi volevo dire un'altra cosa. Forse sarà anche colpa degli adulti se i ragazzi non riescono più a intendersi. In internet esistono dei tesori di informazione, che non mi riferisco solo a YouTube, mi riferisco anche a quelli che si avvalgono prevalentemente della forma scritta, parliamo dei forum. Cioè, quando qualcuno ha un dubbio su qualcosa, o una paura, o un consiglio, può entrare in contatto con migliaia di persone, ognuno può fornire un'idea diversa. E comunque... la struttura di internet è quella più democratica che c'è, cioè adesso YouTube. Lei mi sta aprendo un nuovo capitolo a pochi secondi della chiusura di questa trasmissione, che useremo in altre maniere. Non sono convinto che internet sia la forma più democratica che esiste, ma su democrazia internet, proprio con Paolo Ferri, è stato fatto un importante convegno qualche mese fa alla Bicocca, è venuto fuori che in realtà le due parole collimano fino a un certo punto del loro percorso, ma poi naturalmente esistono dei lati profondi da chiarire, ma non è qui esaurito il discorso sulla televisione vecchia e nuova, lo riprenderemo visto che è un tema a me caro che ho sempre trattato. Per ora ringrazio Michele Ferrarese, ringrazio Paolo Ferri che mi hanno dato una mano, ma riavrò probabilmente entrambi nemmeno fra molto tempo, perché vedo che il discorso è molto interessante, anche se hanno partecipato pochi ascoltatori, molti erano in attesa perché di televisione sentono tutti un gran bisogno di parlare. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.